Tra tanti amici miei ci sta un amico, e ve lo dico, è Lodovico, che degli amici è l'araba felice, la Beatrice che fa felice. Domandagli un favore, te ne fa due, gli cerchi 1000 lire e sono tue, e se gli chiedi il naso non si sbaglia, lui se lo taglia. E te lo dà, Lodovico, sei proprio un vero amico, di stampo antico, non sai dir no. Lodovico, sei dolce come un fico, più caro amico, di te no. Mi daresti se lo voglio l'orologio, il portafoglio ed il vestito, col cappello, con l'ombrella e tua sorella. Lodovico, sei dolce come un fico, più caro amico, di te no. Aveva una ragazza, Lodovico, che non vi dico, un parlantico. Siccome mi piaceva, gliela chiesi, per pochi mesi, restammo intesi. Ma quando la ragazza un certo giorno, con un bimbetto biondo per ritorno, io dissi a Lodovico, amico mio, non sono io, sei tu il papà. Lodovico, sei proprio un vero amico, di stampo antico, non sai dir no. Lodovico, sei dolce come un fico, più caro amico, di te no. Mi daresti se lo voglio l'orologio, il portafoglio ed il vestito, col cappello, con l'ombrella e tua sorella. Lodovico, sei dolce come un fico, più caro amico, di te no. Se lo voglio l'orologio, il portafoglio ed il vestito, col cappello, con l'ombrella e tua sorella. Lodovico, sei dolce come un fico, più caro amico,